Viva Voce con Alessandro Milan. Sono le 9:07 minuti in questo istante, gentili ascoltatori, ben ritrovati. 800 24 00 24, questo è il nostro numero, la mail vivavoce@radio24.it. Allora, abbiamo titolato questa puntata La vergogna del pubblico impiego. C'è stata qualche dichiarazione che ha fatto discutere del ministro alla funzione pubblica Renato Brunetta, dal quale vogliamo partire proprio per questa puntata. Ministro, buongiorno e ben ritrovato. Io avrei cominciato a dire l'orgoglio del pubblico impiego. Vabbè, ma questo è il titolo, insomma. Voi giornalisti siete sempre uguali. Mannaggia, mi ha già preso in castagna, sempre colpa nostra. L'orgoglio del pubblico impiego. Già il primo errore, lo segniamo, ministro. L'orgoglio del pubblico impiego. Bene, allora, visto che tra l'altro lei ha fatto queste dichiarazioni, le sentiremo in audio tra poco, partiremo proprio da quello, le 9:09. Allora, ministro Brunetta, iniziamo proprio a sentire quello che Roccaraso domenica scorsa, era un convegno pubblico, insomma un intervento suo, sentiamo quella parte che è stata molto contestata, con reazioni molto dure, e poi ce la spiega, sentiamo. La carota è la dignità. La carota è che se uno adesso fa il professore, fa l'insegnante, fa il burocrate, si deve vergognare quando dice che mestiere fai. Papà, che mestiere fai? Uno gli dice faccio il impiegato al catasto, non glielo dice con orgoglio. Se invece, quando invece il bambino dice papà, che mestiere fai? Sono tornitore alla Ferrari. Perché il tornitore alla Ferrari ha il sorriso e la dignità di dire al figlio sono tornitore alla Ferrari e l'impiegato del catasto no? Ecco, perché ministro, secondo lei? Ma semplicemente perché per tanti motivi, molti legati alla politica cattiva, al sindacato cattivo, abbiamo distrutto il pubblico impiego. Abbiamo distrutto l'orgoglio, la dignità, abbiamo distrutto le regole di lavorare nel pubblico impiego, il senso di responsabilità. Ovviamente la distruzione non è stata generalizzata, perché poi il sistema galleggia, funziona, grazie al lavoro di tanta gente brava per bene nel pubblico impiego, però si è perso l'orgoglio, si è persa la consapevolezza che i pubblici dipendenti producono dei beni e dei servizi straordinari. Lei pensi, produrre una Ferrari è una cosa bellissima, ma produrre educazione, produrre salute, produrre giustizia, produrre sicurezza è cosa molto più importante. Ecco, i pubblici dipendenti producono, pensi a un maestro elementare che coltiva dei ragazzi, produce cultura e educazione per dei ragazzi, un medico, un infermiere che salva la vita alla gente, un giudice che rende giustizia, un poliziotto che ti dà sicurezza, producono beni molto ma molto più importanti di una Ferrari. Eppure, dovendo produrre questi beni, che si chiamano beni pubblici, beni e servizi pubblici così importanti per la vita di tutti noi, per la vita di un paese, bene, produrre questo, ormai si è persa la consapevolezza che questo sia una cosa fondamentale, importante per la vita di tutti. Ma perché invece di dire, per esempio, che un dipendente pubblico, tra le mille difficoltà, sappiamo, della burocrazia, delle difficoltà, dovrebbe essere invece che vergognarsi di dire al figlio faccio questo, essere orgoglioso di dirlo? Che purtroppo questa è la situazione attuale, perché abbiamo distrutto questo tipo di lavoro. L'abbiamo distrutto noi, l'ha distrutto la politica, la cattiva politica, l'ha distrutto il sindacato, l'ha distrutto con le cattive regole, l'ha distrutto con la burocrazia, con i burocratismi, l'ha distrutto non tenendo conto delle esigenze della gente, cioè allontanandosi dalla gente, facendo diventare il lavoro pubblico una sorta di nicchia, enclave, dove una casta viveva e galleggiava, chiusa, senza avere contatti con i clienti, 60 milioni di cittadini. Allora, quello che sto cercando di fare io, e mettiamolo in positivo, è di far diventare, ritrovare l'orgoglio ai dipendenti pubblici, ritrovare l'orgoglio di e la consapevolezza di produrre beni fondamentali per la vita di tutti noi, più della Ferrari. Far trovare l'orgoglio al maestro elementare, al professore, all'impiegato, al burocrate, al medico, all'infermiere. Far trovare l'orgoglio dicendo: io ho l'orgoglio di produrre beni fondamentali per la vita di tutti. Devo avere la dignità per farlo, devo essere rispettato per farlo e devo rispettare i miei clienti, i cittadini, i miei clienti. Ecco, queste parole. Questo come però? Perché lei ha usato anche l'immagine, vorrei che ce la spiegasse, la bastone e la carota. Mi pare che non abbia bisogno di grandi spiegazioni, sì. Siete anche voi bestrani, voi giornalisti. Quando si dice bastone e carota si capisce benissimo cosa vuol dire. Ci vogliono incentivi e disincentivi, per dirla da economista. Gli incentivi sono: se farai bene il tuo lavoro sarai premiato, se lo farai male sarai punito. Mi pare, se lei fa male il suo lavoro di giornalista viene cacciato via. Lo sa? Sì, lo so. Lo sa, ecco, questo non avviene nel pubblico impiego, dove per un malinteso senso di protezione, chi fa male il proprio lavoro la passa liscia. Siccome io voglio che il lavoro sia fatto bene, voglio che prevalgano ovviamente gli incentivi, i premi, però ci devono essere anche le punizioni. Se ci sono i premi, ci sono le punizioni. Dopodiché, ovviamente. Ministro, però ci sono molte reazioni, come era immaginabile, di tantissimi dipendenti pubblici. Oggi, per esempio, li potrà leggere, non so se è una lettura delle sue preferite, quella dell'Unità, ma insomma di dipendenti che scrivono: io non mi vergogno per niente, anzi si vergogni il ministro, io sono orgoglioso di quello che faccio, faccio l'insegnante, faccio... È vero, dicono tra mille difficoltà, burocrazia, però sono orgoglioso. Non l'ho perso questo orgoglio. Lei è mai andato in un bar? Lei è mai andato in giro paese? Vivo. Lei è mai andato per il paese? Lei trova un popolo di dipendenti pubblici felici del lavoro che fanno? Lei trova un popolo di italiani felici dei beni e dei servizi pubblici che ricevono, felici della loro burocrazia? No, la seconda no, gli italiani felici sicuramente no. Molti insegnanti sì, orgogliosi. Non sono contenti dei servizi, dei beni, dei servizi che ricevono dallo Stato, dalle regioni, province, comuni, cioè dal pubblico, non sono affatto felici. E quindi in un regime, chiamiamolo di mercato, quando un produttore produce bulloni o produce giornali che non piacciono ai propri clienti dovrebbe preoccuparsi. Va bene? Allora, se io fossi un insegnante, un burocrate, un dirigente, dovrei preoccuparmi del fatto che i miei clienti non sono soddisfatti, cosa che non avviene quasi mai. Allora, lasciamo perdere gli insulti o le deviazioni dei politicanti di turno o dei sindacalisti di turno. Il problema è: gli italiani sono contenti dei beni e dei servizi che ricevono dallo Stato, dalle regioni, province e comuni? Sono contenti? No. Allora io mi sono posto questo problema. E i miei clienti, i miei datori di lavoro sono i 60 milioni di italiani. E io per prima cosa mi preoccupo di loro e delle loro reazioni. E poi mi preoccupo anche ovviamente dei 3.650.000 dipendenti pubblici che sono strumentali per produrre quei beni e quei servizi. Quindi per prima cosa io penso ai clienti. I clienti. Ministro, le voglio far sentire sempre un'altra sua dichiarazione sulla CGIL che lei ha definito, ma la possiamo sentire, credo, il grande nemico. Sentiamo. Io ho avuto un grande nemico in tutto questo che è stata la CGIL. Lo dico. La CGIL. La CGIL su tutte queste mie cose non ha detto una volta di sì. Non ha detto una volta di sì. E mi dispiace molto, perché la CGIL è un grande sindacato, è un sindacato importante, è un sindacato, i sindacati sono fondamentali nella vita del paese, però i sindacati quando sono conservatori non servono al paese. Nemico non è un, anzi grande nemico non è una brutta espressione, almeno non so dire avversario, forse sarebbe stato meglio. Ma quanta ipocrisia. Quante volte lei dice nemico nella sua vita di tutti i giorni? E quel giornale è un giornale nemico. È chiaro che le faccio la lezioncina in politica, non ci sono nemici, sono solo avversari. Vogliamo giocare con l'ipocrisia? Allora, dice c'è troppo politically correct. Io CGL la conosco benissimo, sì. Come conosco il sindacato. E ciascuno dovrebbe tornare a fare il proprio mestiere, a rappresentare gli interessi dei lavoratori. E di lavoratori ovviamente del pubblico impiego, in questo caso parliamo del pubblico impiego, e gli interessi dei lavoratori si fanno per esempio firmando i contratti, sottoscrivendo i contratti di lavoro, non facendo politica, non dicendo sì con i governi amici e dicendo sempre no con i governi considerati non amici. Purtroppo questo è il vizio del sindacato italiano o di una parte del sindacato italiano. E anche questo, vede, io lo dico tranquillamente, perché lo dicono tutti, però non si può dire. Allora, ripeto, io sarei felice che di questa, chiamiamola rivoluzione, piccola rivoluzione, di questo cambiamento, di queste riforme, su queste riforme, su questo cambiamento ci fosse il consenso, l'aiuto, la collaborazione del sindacato. Se però il sindacato si arrocca su posizioni conservatrici, ne prendo atto, ma vado avanti lo stesso. Ministro, a proposito di sindacati, visto che oggi parte pochi minuti fa, poche ore fa, è partita la nuova Alitalia, come abbiamo seguito anche in GR24, impresa diretta, continuamente con i primi voli. Si è detto Alitalia è stato per 60 anni prigioniera anche di un cattivo sindacato, o più di una cattiva politica, o tutte e due. Cattiva politica e cattivo sindacato hanno prodotto mostri nel nostro paese. E il mostro Alitalia era un mostro che perdeva 2 milioni di euro al giorno. Questa è la cattiva politica per prima e il cattivo sindacato in parallelo, che ha prodotto 2 milioni di euro al giorno di perdite per almeno 10 anni. Queste sono le cose chiare da dire alla gente. Le vogliamo dire? Le volete dire voi giornalisti? Con chiarezza? Ci sono ancora manifestazioni a Malpensa. Colaninno poco fa ha detto saranno le ultime, insomma, il fuoco di paglia finale. Lei crede che anche ora il sindacato con la nuova Alitalia potrà avere comunque un potere molto forte di blocco, non di blocco, della nuova Alitalia? Il sindacato deve rappresentare gli interessi dei lavoratori iscritti. Il sindacato deve fare gli interessi dei lavoratori facendo gli interessi dell'azienda, perché se il sindacato uccide l'azienda da cui dipendono i propri iscritti, non fa gli interessi degli iscritti. Questo mi sembra molto chiaro, solo che se il sindacato non aveva di fronte un datore di lavoro vero, ma aveva di fronte Pantalone, si poteva certamente allargare, come dicono a Roma. Questo non sarà più. Ha di fronte degli imprenditori che devono far quadrare i conti, che devono dare dei buoni servizi ai cittadini, e ha di fronte il mercato. Poco si dice, Alitalia è stata privatizzata, questo è il termine che si usa poco, CAI, non CAI, sindacati, Air France, Alitalia è stata privatizzata, sì. E adesso deve fare i conti con il mercato, i conti con il fatto che se qualcun altro mi offre un servizio migliore io cambio. Non c'è più il monopolio, Open Sky, la nuova regolazione europea 2010 liberalizzerà anche gli slot, liberalizzerà. Sul Milano-Roma adesso un po' di monopolio c'è, purtroppo, insomma, temporaneamente. Il 2010 non ci sarà più, non ci sarà più. Vede, all'Italia è cominciata a colare a picco quando si sono sviluppate le liberalizzazioni in giro per il mondo, in Europa e nel mondo. Non ha ritenuto la dirigenza di allora di uniformarsi ai meccanismi di mercato, di liberalizzazione e di competizione, i risultati li abbiamo visti. Adesso è stata privatizzata, evviva Colaninno, evviva gli imprenditori che si misureranno con il mercato, che faranno i conti, e io sono convinto che daranno dei servizi ai cittadini clienti, migliori di quelli di prima e certamente non più a spese dello Stato. Ministro, visto che starà ancora pochi minuti con noi, le voglio fare qualche domanda sulle due grandi notizie che ci sono su due giornali, Il Sole 24 Ore e Repubblica. Comincerei da Repubblica, che ieri per la verità ha iniziato con Giuseppe D'Avanzo un'inchiesta titolata In arrivo il Grande Fratello. Si parla dell'accordo che lei ha firmato col ministro alla giustizia Alfano per creare una grande banca dati virtuale nella quale confluiranno, nel tema della giustizia, tutte le notizie di reato, fascicoli, verbali, intercettazioni, per dare più rapidità ai processi, via gli archivi cartacei, sburocratizzare, togliere quell'aura un po' barocca della giustizia, velocizzare, eccetera. Denuncia Repubblica il rischio di un grande fratello, cioè tutto controllato da un unico grande cervellone che potrebbe essere dato anche in outsourcing esterno. Dunque un controllore unico, una società, un qualcuno che potrebbe controllare tutti gli atti giudiziari del paese. C'è un rischio esagerato, denuncia Repubblica? Posso darle una risposta visiva? Sì. Sorrido. Vabbè, con quelle faccine che vabbè, però insomma, non se la cavi solo voi così. Avete nel vostro, nella vostra redazione avete un computer? Ma questo sì, però avete una banca dati? Sicuramente, ma usate le agenzie di stampa? L'intento La carta c'è ancora o si sta esaurendo? Ministro, l'intento Repubblica. No, ma sì, ma certo, ma sono domande retoriche, voglio dire. Vi sentite meno liberi? No, ma voglio dire, più liberi. Se lei ha bisogno di un'informazione va su Google. Se ha bisogno di informazione va sulle agenzie di stampa, se lei scrive qualcosa poi lo manda in redazione, viene messo in pagina. Ministro, eccetera, è tutto eccetera. Chiaro, l'intento, l'intento è chiarissimo. Lei vorrebbe tornare sotto in redazione con il piombo fuso. Ministro, se ha finito con le domande, a questo passato, ecco, vede, la giustizia ad oggi sì. È ancora quella dei giornali con il piombo, fuso, con i dinotipisti. E questo lo stesso, la stessa Repubblica, eccetera, eccetera. La stessa Repubblica l'ha sottolineato. Però lei sa che un fascicolo giudiziario è più segreto, è più importante di un'agenzia di stampa, voglio dire. Non c'è questo rischio. Dica, ci rassicuri da questo punto di vista. Le fughe sono avvenute dai computer o sono venute dalle manine o dalle manone degli operatori umani della giustizia? Mi risponde? Sì, anche dalla seconda, ma voglio dire, poi chi controlla un computer risponde, è una mano. Mi risponde bene. Chi ha fatto uscire le notizie? Chi ha perso i fascicoli? Chi ha perso i faldoni? Leggevo oggi sui giornali, sono persi 18 faldoni di carta della Procura di Genova, mi pare, sulle vicende del casinò di Sanremo. Chi perde i faldoni? Chi ha perso? Io non dico, non do colpi a nessuno, dico solo che questa è il futuro. L'innovazione è il futuro, lo sa lei, lo sa suo figlio, lo sa sua moglie, lo sa il giornale, lo sanno gli italiani. E paventare il futuro è da conservatori, per carità. Se gli amici di Repubblica, agli amici di Repubblica piace questa giustizia, piacciono i faldoni, piacciono le manine e le manone, liberi ovviamente di tenersi questo tipo di struttura. Io penso che il futuro italiano, il futuro americano, Obama, banda larga, sia questo. Dopodiché ci vogliono le garanzie, la trasparenza, i controlli, la sicurezza. Ovviamente, siccome siamo bravini, queste cose le sappiamo benissimo. Sì. Ecco, però io dico, questo è il futuro. Insomma, lei può rassicurare che tutto verrà fatto in estrema sicurezza, anzi più sicurezza di quella che è attuale. Assolutamente più. Allora, le faccio una domanda. Accidenti, ma sarei io che dovrei fare le domande a lei, ministro. Un cancelliere, Dio non voglia, un magistrato. No, questo è vero, non è mai stato trovato. Responsabile di qualche fuga di notizie, è stato mai trovato? No, non è mai stato trovato. Si spera che un domani, insomma, non ci siano fughe di notizie dai computer. Allora, dietro ai computer c'è un uomo. Non si potrà che migliorare. Perfetto, veniamo al tema invece sul Sole 24 Ore. Ne ha parlato anche poco fa, prima di noi, il nostro direttore Gianfranco Fabi. Le pensioni, sale l'età delle donne. Sappiamo che lei lo ha detto in risposta, insomma, alla famosa decisione della Corte europea. Allora, il governo si è impegnato ad allineare l'età di pensionamento tra donne e uomini nella pubblica amministrazione. È un tema che ha creato anche questo un grande dibattito e pare che proprio lei porterà prossimamente, insomma, nel Consiglio dei Ministri la riforma. Le chiedo, visto che il Sole 24 Ore ipotizza due possibilità, da una parte il prevedere un adeguamento scaglionato con l'aumento per esempio di un anno ogni due del requisito per l'accesso alla vecchiaia delle donne, dall'altra parte si punta invece a un primo aumento da 60 a 62 anni, un primo scalino, tac, subito due anni. Ci dica quello che può dire, insomma, ci dia una notizia, se è vero o non è vero. Intanto la prima notizia che non avete sottolineato è che una volta tanto l'Italia risponde il giorno prima della scadenza dell'ultimatum, chiamiamolo così. Non sempre era avvenuto questo nella nostra storia. Dovevamo rispondere entro il 13, abbiamo risposto ieri con una lettera impegnativa di cui voi correttamente e intelligentemente date conto. Quindi questa è una piccola cosa, cioè se abbiamo fatto correttamente il nostro dovere di europei, la Corte di Giustizia ci dice quello di una condanna, dobbiamo rispondere entro il 13, 60 giorni all'Unione Europea, abbiamo risposto il 12 sera. Sì. Piccola, come dire, lezione di adeguamento allo stile europeo, autolezione parlo. Sì. Prima cosa. Seconda cosa, la competenza è del Consiglio dei Ministri nella sua interezza. Stiamo svolgendo un'istruttoria molto seria con tutti i ministri competenti. Proporremo, come dite anche voi, nel più breve tempo possibile una serie di ipotesi di soluzione che vanno nel senso indicato dalla sentenza dell'Unione Europea. Lo faremo, come ha detto Berlusconi, progressivamente e con flessibilità. Noi pensiamo anche che questa soluzione possa essere collocata nell'ambito della direttiva europea sulla parità, nel senso che occorrerà evidentemente tener conto di tutto il ciclo di vita delle donne in questo caso, e quindi considerare sia la parte della vita attiva, e cioè l'occupazione, sia la parte familiare, la parte welfare e così via, per chiudere con l'età di pensionamento. Senta, ma graduale flessibile vuol dire che la prima delle due ipotesi che ho citato, cioè avessi voluto risponderle. Capito, ministro, il mio ruolo è farle le domande. Il mio ruolo è di rispondere con correttezza nel rispetto delle competenze del Consiglio dei Ministri e di tutti gli altri ministri. Se no succede, come dire, che ciascuno parla per sé. Vabbè, fa una fuga in avanti che in questo momento non deve fare, insomma, non deve scoprire. Appunto, troppe carte. Abbiamo risposto nei termini giusti. Stiamo a livello di Consiglio dei Ministri riflettendo, perché la cosa è delicata, tra l'altro desta anche molte preoccupazioni tra la gente, non bisogna turbare i sonni di nessuno, attenzione, perché le pensioni sono un tema estremamente delicato. Il tema però esiste, anche perché per fortuna la vita media si allunga, la speranza di vita si allunga, e c'è un tema fondamentale che è quello dell'equità. Dell'equità donne uomini. Troppo spesso abbiamo limitato la libertà delle donne, soprattutto noi maschietti, troppo spesso considerandole angeli del focolare, in realtà le abbiamo sfruttate durante la vita attiva, nella famiglia, nell'accudire genitori malati, e anche facendo finta di mandarle in pensione prima, per poi magari costringerle a continuare a fare le badanti o le infermiere. Ecco, facciamoci un po' di autocritica noi maschietti, o genere maschile, al di là dell'autocritica individuale, cambiamo le regole, e cambiamole in maniera equilibrata, corretta, equa, in maniera tale che si superino queste discriminazioni, anche quelle pelose, che sembrano dei vantaggi, in realtà sono delle ghettizzazioni. Allora, staremo a vedere come sarà questa riforma. Intanto, ministro, la saluto e la ringrazio. C'è da dire, molti messaggi sono arrivati a dire bravo Brunetta, continui così. Molti anche a dire, però insomma, il tono sempre molto un po' arrogante anche, no? Lei è il suo tono, dice ministro. Sappiamo che è combattivo, pugnace, però a volte... Volete io... No, va bene, amo, no, il politically correct no, però insomma... Contropelo. E cos'è che ama? Accarezzare contropelo. Ah, va bene. Allora, grazie comunque per essere stato con noi. Ma posso solo dire una cosa? Sì, come no? Mi ragna sempre che la politica è incomprensibile. È vero, politica, no, questo è vero. Lei non è uno che quando parla non... La politica è ipocrita. Sì. Una volta tanto che uno parla chiaro, con una qualche competenza, non va bene? Sì, no, ma su questo le do atto. Non è uno che quando parla, insomma, passa inosservato e non dice le cose come le pensa lei, ovviamente. Poi ognuno rimane delle proprie idee. La ringrazio, ministro, per essere stato con noi. Cambiare le idee. Sì, vabbè, cioè anche lei può cambiarla, si possono. No, io le posso cambiare, possono cambiare anche gli altri. Sì, sì, come no, certo. Grazie a lei e al ministro Renato Brunetta. E allora un attimo di pubblicità, insomma, poi devo dire, poi anche gli ascoltatori, è stata un po' stravolta la trasmissione, il ministro Brunetta doveva stare 10 minuti in apertura, è stato molto di più come vedete, e quindi grazie, sono arrivati ospiti che erano però in TV fino a questo momento, ma si sono liberati. Uno è Giuliano Cazzola, buongiorno, del Popolo della Libertà, buongiorno Cazzola. Allora, insieme all'onorevole Giuliano Cazzola del Popolo della Libertà, saluto il segretario generale della CGIL Funzione Pubblica, Carlo Podda, buongiorno. Buongiorno Podda. Buongiorno. Allora, voi non avete potuto ascoltare Brunetta, ma insomma, come ho detto, eravate impegnati in un dibattito televisivo fino a poco fa su questo. Magari Podda tra poco le riepilogherò quello che ha detto il ministro, insomma, ma già ha fatto le dichiarazioni che sa. Diamo la linea a due ascoltatori, cominciamo da un'ascoltatrice, Silvia da Cuneo, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Dica. Mi dispiace di non avere più al telefono Brunetta, sì, perché volevo dire il mio apprezzamento per il suo lavoro, anche se io non l'ho votato, perché per idee politiche comunque non sono vicino a lui, ma sorprendentemente sta facendo del bene al pubblico impiego. E poi volevo dire che io non mi vergogno di essere una dipendente pubblica, mi vergognerei se fossi un dirigente degli uffici pubblici, perché il burbone della pubblica amministrazione non sono i lavoratori fannulloni che ci sono, ma sono i dirigenti inetti, incapaci, che non hanno voglia di lavorare, non hanno voglia di prendersi le responsabilità, perché se alla Ferrari l'operaio deve essere orgoglioso, è orgoglioso perché il suo capo reparto, se non lavora, lo manda via. Nella pubblica amministrazione il fannullone rimane lì perché il dirigente vuole andare a dormire tranquillo, sì, non avere dei problemi. I dirigenti sono il problema. Brunetta e i sindacati devono far sì che siano i dirigenti a controllare. La pubblica amministrazione improvvisamente inizierà a funzionare meglio. Grazie Silvia, vado a Lecco, anzi in provincia di Lecco, da Fabio. Buongiorno. Buongiorno, io sono insegnante e Brunetta è un personaggio veramente affascinante, perché dopo che magari lo senti dire una cosa che non approvi o che, con la quale sei in totale disaccordo, ne dice una assolutamente splendida. Quello che diceva dell'orgoglio e di essere dipendente pubblico e del valore che prodotto dai dipendenti pubblici, forse bisognerebbe dirlo più spesso. Io credo che la percezione del dipendente pubblico italiano sia anche parzialmente, per me anche tanto, motivata da anche un'immagine che viene data dal dipendente pubblico. C'è una percezione che poi è diversa. Io sono convinto che molte persone che astrattamente si lamentano del mondo pubblico, scuola in giù, poi concretamente nella loro vita reale avrebbero meno necessità e occasione di lamentarsi. Pensiamo alla sanità. Abbiamo una sanità che, dati OMS, è secondo il mondo sulla base del rapporto risultati, risorse, ma noi parliamo di mala sanità e questo indubbiamente non fa bene a chi ci lavora. Fortuna chi ci lavora poi è orgoglioso per conto suo. Grazie Fabio. Podda, Brunetta, lei tra l'altro oggi ha scritto una lettera pubblicata sul Manifesto, una lettera, caro ministro ti scrivo sostanzialmente. Brunetta poco fa alla frase, ma insomma le accuse di aver dato del grande nemico alla CGIL, ha detto ma quanta ipocrisia, insomma ci siamo a stare qui a discutere sulle parole, finalmente uno che parla chiaro, la CGIL non ha mai firmato nulla, il cattivo sindacato ha prodotto insomma nessuna firma sostanzialmente del pubblico impiego, e ha ribadito con tutto che la CGIL è un grande sindacato importante ma dovrebbe remare nella direzione giusta. Lei vuole replicare su questo a Brunetta e queste esternazioni che ha fatto, le ultime? Sì, vedo diciamo che la stessa leggerezza nel considerare le parole non è stata adoperata quando lui ha accusato coloro che avevano pubblicato un'inchiesta su un uso disinvolto del modo di procurarsi delle abitazioni, così le definiva il giornalista da parte del ministro. Lui ha accusato quel giornalista di averlo esposto al rischio di attentati terroristici. Quindi vedo che insomma c'è un modo diverso di considerare le parole a seconda se vengono rivolti contro se stessi o contro qualcun altro. Io, come posso dire, non ho nessuna remora a considerarmi un avversario del ministro, considerarmi un nemico e sentirmi indicato anche nei confronti di qualche circolo e di qualche potere come essere il nemico del governo o del ministro Brunetta, francamente mi sento un po' imbarazzato e penso che un ministro dovrebbe essere più continente. Del resto il ministro non è nuovo a questo, quando ha fatto un'intervista in cui ha detto chi se ne frega della CGIL, se non sbaglio è stato costretto a scusarsi persino con le gerarchie vaticane per alcune affermazioni che erano state riportate in una sua intervista circa l'uso del lavoro precario in quello che rimane comunque la fede che ciascuno ha, uno Stato estero rispetto allo Stato italiano. Quindi insisto, io ho un'idea delle istituzioni per cui un ministro dovrebbe essere un po' più continente nell'uso delle parole e dei vocaboli che adopera e degli attributi con cui qualifica il lavoro dei suoi interlocutori. Poi, per quanto riguarda il merito delle questioni, il ministro fa tante affermazioni. Ciò che sta ai fatti è che però nel 92 la privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico l'ha chiesta e ottenuta la CGIL, e quel poco che c'è di aziendale oggi nella pubblica amministrazione, per così dire, l'ha fatta e l'ha voluta il sindacato. È stato così per la riforma sanitaria, è stato così per le agenzie fiscali, è stato così per l'INPS. Sono tutti esempi di eccellenza dell'amministrazione italiana. Vengo da un dibattito con l'onorevole Cazzola nel quale il rappresentante della Lega, che non credo possa essere sospettato di essere, diciamo, molto generoso nei confronti dei lavoratori pubblici, ha detto però che si è stancato anche lui di sentire queste generalizzazioni, perché ad esempio i suoi lavoratori pubblici, quelli della provincia che lui dirige, delle amministrazioni pubbliche di Varese che lui incontra tutti i giorni, sono persone efficienti che lavorano, che danno il loro risultato e che sono giustamente orgogliosi della provincia. Senta, l'accusa però di non, l'accusa di non fi... sì. È la generalizzazione delle cose che dice. Non firmare. Ecco, riguardo proprio al non firmare, io volevo proprio arrivare a questo, l'accusa. Beato chi lo vede il ministro. Noi, da quando il ministro è in carica, io ho incontrato ufficialmente ad un tavolo di trattativa il ministro una sola volta, la notte del famoso protocollo sul contratto che io chiamo social card per i lavoratori pubblici, cioè da 40 euro d'aumento al mese, quello che detrae risorse a partire da gennaio pari a 30 euro da 30 fino a 280 euro al mese a seconda della qualifica e della categoria pubblica nella quale si lavora. Ci è stato chiesto semplicemente di dire un sì o un no e a quel punto abbiamo detto no, perché la mia, cioè, lei dice non lo incontriamo, è una controparte che non lo incontriamo. Non lo incontriamo e non trattiamo. Abbiamo in quella sede confermato la nostra volontà di stare al tavolo e discutere del modello contrattuale per il settore pubblico, non siamo stati mai convocati a quel tavolo, dunque non capisco, diciamo, dove il ministro registri la nostra indisponibilità. Voglio qui ricordare che noi siamo l'unica categoria che per 15 anni ha mantenuto un rapporto unitario e che abbiamo sottoscritto protocolli col primo governo Berlusconi nel 2002, quando la CGIL pensava che fosse complicato persino prendere un caffè con quel governo. Noi facemmo all'alba del congresso della CGIL a febbraio del 2002 un accordo importante per tutto il lavoro pubblico con quel governo. Per la funzione pubblica della CGIL conta il merito, se c'è il merito per fare un'intesa la facciamo. Abbiamo fatto accordi con tutti e devo dire anche scioperi con tutti, perché noi abbiamo fatto sciopero anche nell'ottobre del 2007 contro il governo Prodi per gli stessi motivi per cui non abbiamo accettato questo accordo, esattamente per l'esiguità delle risorse previste finanziaria per il contratto, e abbiamo fatto sciopero anche contro questo governo, perché il nostro metodo di giudizio rimane sempre lo stesso. Mi faccio andare un attimo dall'onorevole Cazzola. Onorevole Cazzola, l'accusa di molti al governo, ma in questo caso al ministro Brunetta, è dire avere una sicuramente una strategia comunicativa mediatica molto molto efficace, che poi però, come per esempio ha detto credo in un'intervista oggi il segretario della CISL Bonanni, che ci siano le riforme vere, non basta solo, insomma, avere una grande capacità di comunicare le cose molto bene, questo bisogna dare atto al ministro Brunetta, ma poi di fare cose che efficacemente e in maniera concreta cambino e migliorino il dipartimento, insomma, della funzione pubblica. È un'accusa sbagliata secondo lei, o c'è molto anche di mediaticità nel modo di comunicare le cose? Ma guardi, c'è molta mediaticità, non c'è dubbio, però lui è un interlocutore, non è un piacione, nel senso che di solito siamo, quando si parla di effetto mediatico si pensa ai piacioni, no? A persone che lisciano il gatto dalla parte del pelo. La cosa sorprendente di Brunetta è che lui dice delle cose sgradevoli, però che vengono avvertite dall'opinione pubblica come cose vere. Probabilmente ha ragione Podda quando dice che avrebbe bisogno, dovrebbe forse differenziare di più, fare i discorsi più articolati. Però insomma l'abbiamo sentito anche dagli ascoltatori che dicono però sto Brunetta è uno che ci prende. Evidentemente interpreta un sentimento diffuso dell'opinione pubblica, anche tra i dipendenti pubblici, che ci azzecca in qualche modo. Tra l'altro io voglio ricordare che poi non è vero che l'azione di Brunetta sia un'azione solo mediatica, perché diciamo con l'iniziativa mediatica in qualche modo ha aperto, non dico che ha risolto, la questione dell'assenteismo. Voglio ricordare che il Senato ha approvato con l'astensione dell'opposizione e con una intesa cordiale col senatore Ichino una riforma della pubblica amministrazione che adesso è passata alla Camera. Voglio ricordare che ha rinnovato i contratti di lavoro del pubblico impiego con sindacati, ovviamente con l'opinione contraria della CGIL, assolutamente legittima, ma con sindacati che sono sindacati seri, perché nessuno può dire che la CISL, la UIL e l'UGL non sono sindacati seri. Voglio ricordare per esempio che sulla legge 104, sulla riforma della legge 104, che alla Camera ha suscitato un sacco di polemiche, alla fine sull'articolo che riformava la legge 104 l'opposizione si è astenuta. Quindi insomma è vero anche che fa delle cose Brunetta, che non fa soltanto delle sparate. Sì. Diamo le informazioni sul traffico, poi voglio salutare, tanto ci stava ascoltando, il sindaco di Partinico, Totolo Biundo. Buongiorno sindaco. Buongiorno. Sono da lei subito dopo il traffico, perché deve spiegarci e deve cercare di spiegarci, so che farà una difesa per carità strenue d'ufficio del suo ruolo, ma quando tutti hanno titolato benvenuti a Partinico, il comune dei fannulloni, insomma, Partinico, Palermo, sindaco Lo Biundo, abita quanti sono? 32.000. Secondo un sito, o comunque chi ha censito, chi è andato a fare un po' le pulci, va detto che lei è sindaco da poco, credo 6 mesi, però il dato di fatto da sei mesi. Dato di fatto sarebbe 470 impiegati, uno ogni 63 abitanti, da cui insomma i titoli, non dica anche lei che i titoli non le piacciono, come ci ha detto all'inizio il ministro Brunetta, insomma Partinico, comune dei fannulloni. Dei tanti dipendenti pubblici, insomma, mettiamola così. Sì, ma non è un bel titolo se non si hanno dei dati fondati, perché prima di sparare a zero contro un comune e ledere l'immagine di un comune, a prescindere che nell'ambito degli impiegati pubblici c'è da rimodulare, c'è da fare tanto per migliorare la situazione deficitaria che c'è, però non si può colpire un comune non avendo dei dati concreti e sparare a zero, cioè, perché io penso che una testata giornalistica di questi livelli, di portata nazionale, non si può permettere di far scrivere tra l'altro a un partinicese, perché poi l'ha scritto il signor Molino, che è un partinicese e che tra l'altro lo reputavo un amico mio, perché ma di che testata, per fare carriera politica, carriera giornalistica, non si può permettere di infangare prima il proprio paese di origine. E poi sindaco, di che testata parla? Sindaco, mi sente, di che testata parla? Tanti hanno scritto. Sì, su Venerdì di Repubblica. Ah, ma anche il giornale l'ha scritto. Sì, no. Ma guardi, anche la Corte dei Conti si è interessata a Partinico. Su Venerdì di Repubblica è stato fatto anche l'articolo sul giornale. Quindi poi i dati sono errati, perché non abbiamo 470 dipendenti, ma ne abbiamo 300. Quindi prima di andare a sparare a zero si devono documentare, e poi la media cambia letteralmente, perché noi abbiamo 170 dipendenti full time e abbiamo 262 dipendenti part time a 18 ore. Allora, i dati li ha corretti così, sindaco, però lei che ne pensa? Insomma, qualcuno dice spesso che soprattutto in alcune regioni, insomma, il rifugio del dipendente pubblico negli anni è stato così quasi una sacca per creare occupazione, anche iperoccupazione. Questo problema lei non c'è, i dati ce li ha contestati, insomma, non 470 ma 300, va bene. Forse come media, adesso non so fare i calcoli su 63.000 abitanti, ma sono comunque abbastanza come media. Già di un terzo diminuiamo, da 470 a 300 già diminuiamo di un terzo. Sì, no. Non è che però sono abbastanza in temi percentuali, siccome anche la Corte dei Conti si è occupata per altri motivi, insomma, dei conti di Partinico eccetera, non crede, però risponde alla mia domanda, che nel sud non ci sia un atteggiamento, insomma, magari passato, che dovrebbe cambiare, di rifugiarsi nel dipendente pubblico come appunto, sì, sacca, no, perché ha pienamente ragione su questo. Questa è stata la logica che c'è stata nel passato. Noi abbiamo vinto queste elezioni un gruppo di ragazzi proprio per cambiare, per rimodulare, riassettare la macchina amministrativa. Questo era lo slogan della nostra campagna elettorale. Dei dati che gli posso dare è che si parlava poco fa di Brunetta. Con il decreto Brunetta noi abbiamo ridotto, applicandolo in maniera adeguata, del 60% le malattie nei mesi precedenti, nei periodi di cui io in questo momento amministro questo comune di Partinico, sì, rispetto all'anno precedente. Ah no, questo è interessante, cioè sono diminuite del 60% le assenze. Tra l'altro, insomma, con questo articolo che c'è stato, abbiamo ricevuto pure delle telefonate dal ministero, guarda, anche per avere delle comunicazioni sui dati effettivi che avevano comunicato sul giornale. Allora, visto che c'è Carlo Podda, ha sentito, partendo da una storia che, se si vuole, è partita in negativo, almeno si dice il paese dei fannulloni. Il sindaco di Partinico ci dice, per esempio, per parlare delle cose effettive, che i fannulloni, perché i dipendenti di quel comune non fanno nulla. Non lo so, sindaco. Non lo so. No, dice è diminuito. No, no, lui, l'equazione tra dipendente pubblico e fannullone. No, no, no, no, però io le ho fatto una domanda sulla questione. Se facessi l'equazione tra giornalisti e pennivendoli, no? Vabbè, ma sì, vabbè. Vabbè, ma no, ma io non ho fatto questa equazione. Ho detto che il titolo era quello, però le volevo chiedere una domanda. No, il titolo è che mi preoccupano le generalizzazioni, no? Come se io mi metto a dire, sai, guardi, il ministro Brunetta ha ragione, Cazzola riesce a dire cose sgradevoli ma che lisciano il pelo a gran parte delle viscere della popolazione italiana. Secondo lei, se io mi metto in una piazza centrale di Roma a raccogliere un banchetto delle firme su un'affermazione che dice che la classe politica italiana è corrotta e inefficiente, quante firme raccolgo in mezz'ora? Ma certo, ma questo, siamo d'accordo. Io però Podda, mi scusi, bisognerebbe, diciamo, chi ha responsabilità di amministrare, governare e cambiare questo paese dovrebbe, diciamo, fare un po' meno proclami e un po' più cose concrete. Bene, allora, siccome il sindaco di Partinico ci ha spiegato, per esempio, che su questa cosa concreta la riduzione del 60% delle malattie c'è stata, almeno visto che si sta parlando anche della mediaticità del messaggio del ministro Brunetta, il sindaco ci ha detto questo, insomma, un'efficacia c'è stata. Ma io sono d'accordo, ha fatto bene, l'ha fatto utilizzando leggi e contratti che il sindacato ha sottoscritto. Perché è dal 94 che abbiamo sottoscritto contratti che applicano le stesse norme del contratto dei metalmeccanici in materia di assenza. E dipende poi dalla classe politica e da chi dirige che quelle norme vengano applicate. Non dipende mica da altri. Mi faccio andare a Palermo da un'ascoltatrice. Nika, buongiorno. Buongiorno. Dunque, io sono stata 20 anni a capo del personale di un grande ufficio, chiamiamolo l'ex ufficio imposte dirette, per evitare di entrare nella gestione e toccare l'animo di qualche dirigente da vicino. Quindi dirigente della pubblica. No, funzionario, io sono stata funzionario. E allora, le volevo dire questo, 20 anni mi hanno fatto vedere l'excursus che c'è stato, sono andata in pensione 4 anni fa, quindi l'excursus che c'è stato dall'83-85 sino a quando sono andata in pensione nel 2004. Indubbiamente la realtà che c'era 20 anni fa era mostruosa. Parlo del sud e non mi permetto di parlare del nord e di generalizzare. La realtà che c'era era una realtà mostruosa. E non si può dire quanta gente non lavorasse, però io devo dire al ministro Brunetta una cosa: se gli uffici del sud, anche importantissimi come quello che è stato l'ufficio imposte dirette, si sono portati avanti e hanno potuto gestire un servizio pubblico, lo hanno fatto perché per ogni persona che non lavorava, o anche 2-3 persone che non lavoravano perché assenti o presenti come se non ci fossero, ce n'era una che lavorava per loro, faceva per 3-4. Adesso nel corso degli anni le cose si sono meno peggiorate. La realtà era che tutte le estati c'erano sempre le stesse persone che sommavano 30 giorni di ferie a 30 giorni di malattia e non c'erano certificati medici che tenessero. Poi quando ci si rivolgeva al sindacato, il sindacalista di turno diceva che era lì per dirigere il lavoratore e che quindi non poteva fare niente contro. Quindi, sintetizzando, sono i dirigenti a monte e la classe politica a monte che deve cercare di dare un giusto equilibrio a chi lavora e a chi non lavora. Nika, siccome ho finito il tempo, voglio finire così con la sua testimonianza, che mi sembra molto chiara, di una persona, funzionario, che per 20 anni ha visto le cose insomma sotto gli occhi. Ce l'ha spiegata benissimo dal suo punto di vista. E con lei voglio finire ringraziando Cazzola, Podda, il sindaco Lo Biundo e ovviamente il ministro Brunetta nella prima parte, in redazione Elisabetta Fuscone e Alessandro Marcotulli, Fabio Cantadori in regia. La mail è vivavoce@radio24.it. A domattina.